America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Hello and welcome to the 83rd Annual Academy Awards. Benvenuti, benvenuti all'83esima edizione dei premi Oscar, degli Academy Awards. Avete sentito una voce un po' sottile, quella di Anne Hathaway, che con James Franco ha presentato La Notte delle Stelle. Ci sono state un po' di polemiche, i due sono molto giovani, lei un po' nervosa e lui un po' assente, ma nell'insieme alla fine si doveva parlare dei film e dei premi e dunque tutto è un po' andato come ci si aspettava. Il discorso del re ha vinto 4 premi come Inception. Social Network, il grande competitor del discorso del re, ne ha vinte 3 e poi abbiamo avuto Melissa De Leo, miglior attrice non protagonista per The Fighter, che ha vinto un paio di Oscar. Natalie Portman per Il Cigno Nero ha vinto l'Oscar per miglior attrice protagonista. Toy Story 3 ha vinto come miglior film d'animazione, film straordinario, assolutamente da vedere. Resta il fatto che il discorso del re ha trionfato con i premi, diciamo così, pesanti: miglior film, miglior regista Tom Hopper, migliore sceneggiatura originale e miglior attore protagonista Colin Firth. Sentiamo che cosa aveva da dire quando gli parlai tempo fa. Ma è un film che sembra è un film per tutti, non è sembra un, forse un film storico, un film costume, un film di un re sconosciuto, che sembra per molte persone pensano in avanti che non è una cosa per loro. Invece fino adesso quasi tutti che hanno visto il film sono rimasti molto sorpresi, perché sono una storia molto più personale. Ma veniamo all'altro film che secondo me avrebbe potuto facilmente meritare e forse avrebbe dovuto prendere la statuetta per miglior film. Si è dovuto poi accontentare di due premi Oscar. Aaron Sorkin, The Social Network. Aaron Sorkin ha vinto il premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per Social Network. Ecco, Social Network secondo me avrebbe potuto meritare qualcosa di più. Avevo intervistato di nuovo tempo fa, ve l'avevo fatto ascoltare, David Fincher, il regista, uno dei migliori registi oggi di Hollywood, un regista molto impegnato, un regista un po' recluso, non ama essere molto in pubblico. Sentiamo cosa mi aveva detto. It's a rare thing to see. Ecco, sentite, Fincher mi diceva: è raro che un grande studio cinematografico possa decidere di fare un film importante su dei 25enni, 24enni, che tra l'altro possono anche essere antipatici, e puntare molto su questo film, perché è un film che poi è anche costato piuttosto caro. Ecco, io qui vi ho fatto ascoltare questo passaggio di una lunga intervista che avevo fatto con Fincher perché è significativo. C'era già allora una nota polemica, perché Social Network è un film impegnato, è un film interessante, è un film del nostro tempo, è un film che racconta la storia di Facebook, racconta la storia di Mark Zuckerberg, racconta la storia di questi giovani dentro un campus universitario. È un film per un certo verso appassionante, non ha quel taglio iconografico che invece abbiamo visto in The King's Speech, perfettino sotto molti punti di vista, però alla fine un film storico un po' slegato dal nostro tempo. Ecco, alla fine ha vinto The King's Speech. Dietro questa vittoria c'è soprattutto la vittoria di Harvey Weinstein, il grande produttore americano, che ha spinto per questo film cercando di mobilitare il possibile e l'impossibile. Alla fine ha vinto lui, e lui secondo me il vero grande manovratore dietro questo premio Oscar. Resto dell'idea che Social Network forse è meglio di King's Speech come film d'attualità e di un certo impegno sul nostro tempo. Natalie Portman, Black Swan. I want to thank my parents, who are right there first and foremost, for giving me my life and for giving me the opportunity to work from such an early age and showing me every day how to be. Natalie Portman, miglior attrice. Devo dire, la sua interpretazione non lasciava dubbi, è stata la più brava di tutte. Sarei stato sorpreso se il premio Oscar fosse andato a Annette Bening, per esempio, che era anche lei una candidata molto molto forte. Il film Black Swan, film controverso, sentiamo che cosa cosa ci ha detto del film Black Swan, il regista di un altro grande film che ha vinto 3 premi Oscar, The Fighter, ha vinto tra l'altro per la migliore attrice non protagonista con Melissa Leo, di nuovo interpretazione straordinaria, il regista David Russell. I think that Black Swan is like a horror movie, more trying to make you bleed and to get a reaction from you. Ecco, una piccola stoccata, ci si provocava molto nel pre-Oscar e Russell così attacca il film Black Swan dicendo che è un film molto più violento. Beh, perché? Perché il suo The Fighter è un film di pugilatori, un film di pugilato bellissimo da vedere anche quello, che aveva qualche accusa velata a sua volta di violenza. Però Russell descrive la differenza di questa violenza e dice che la violenza di Black Swan è una violenza dell'orrore, e ricorda una cosa che gli disse George Lucas, il grandissimo regista, dice: se vuoi colpire il pubblico basta che tagli un gatto a fette o fai soffocare un cane e hai una reazione del pubblico. È molto più difficile avere invece una reazione più emotiva, più sottile sul piano psicologico, e questa è secondo lui la distinzione di fondo: non violenza gratuita, ma violenza semmai che porta un messaggio anche sociale, come porta il suo film girato nei bassi fondi di un sobborgo del Massachusetts. Ecco, come qualità di suoni sentite, in effetti è impeccabile, uno dei tanti punti di eccellenza di Inception, questo film che ha vinto 4 premi Oscar, ve lo ricordo, Leo DiCaprio è il protagonista, è un film che esplora l'inconscio e i misteri dei sogni, un film sicuramente da vedere. Inside Job, Charles Ferguson and Audrey Mars. Forgive me, I must start by pointing out that 3 years after a horrific financial crisis caused by massive fraud. Inside Job ha vinto il premio per miglior documentario, lo merita senz'altro, il miglior documentario sulla crisi finanziaria. Avete sentito una nota polemica del regista, dell'autore Ferguson, di questo film, mentre riceve la statuetta dice: scusate, ma devo dire una cosa, sono molto deluso dal fatto e stupito dal fatto che nessuno degli executive, dei banchieri che ci hanno portato a questa crisi, sapendo benissimo quel che stavano facendo, non sia finito in prigione, e probabilmente in prigione non ci finirà mai. Got to wear a tuxedo, so I wore this. The weird part is I just got a text message from Charlie Sheen. James Franco, che fa una battuta poco felice in questo momento, e il co-presentatore, ve lo ricordo, abbiamo iniziato con lui e con Anne Hathaway, si è presentato con un vestito rosso sgargiante, una parrucca bionda, e interpretava Marilyn Monroe, era travestito da Marilyn Monroe. Ma qual è il punto? Che a un certo punto dice: ho ricevuto un messaggino in questo momento da Charlie Sheen, un altro grande attore americano che è finito purtroppo sulle cronache nere per aver avuto qualche peccato di eccessi sessuali e forse qualche violenza casalinga. Dunque una battuta non felice, il pubblico ha riso, ma si è trattata di una risatina un po' nervosa, perché la battuta secondo me è stata infelice, è stata infelice anche secondo il pubblico, l'argomento era molto delicato e direi che in qualche modo riassume alcuni aspetti che non hanno funzionato dal punto di vista dell'organizzazione di questo premio Oscar, che ci ha fatto comunque sognare grazie ai film che raccomando di vedere, perché sono davvero tutti molto belli. Speriamo che l'anno prossimo l'organizzazione sia un po' meglio. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vorrei dare io un premio a un film che non ne ha preso nessuno, True Grit, il Grinta, e il premio che gli do è quello per miglior canzone, anche se la migliore canzone è andata a Social Network, una musica un po' difficile da ascoltare. Dunque, da True Grit ascoltiamo Johnny Cash, God's Gonna Catch You Down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.